Provate a pensare a qual è il posto in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Quello in cui i rapporti sono coatti, perché non ce li siamo scelti noi, ma li abbiamo dovuti creare per forza. Pensate a qual è la situazione in cui dovete sorridere sempre, essere cortesi per definizione e tirare dritti, anche se una giornata storta. L'avete capito qual è, no? È il posto di lavoro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Oggi c'è una splendida giornata qui a Milano, ringrazio tutti gli ascoltatori che, consapevoli delle mie fissazioni per le previsioni meteorologiche, continuano a mandarmi link di siti. Addirittura un ascoltatore mi ha mandato le foto di una stazione meteorologica che lui si è costruito sopra il tetto della sua azienda, se non ricordo male, nel Veneto, che è dotata di tutto, di anemometro, di rilevatore dell'umidità, quindi una vera e propria stazione meteorologica. Io ho una fissazione diversa, mi limito semplicemente a guardare le carte sinottiche e a controllare i movimenti delle perturbazioni, però ognuno ha le sue fissazioni. Lo dico però per questo motivo, perché tra le mail che sono arrivate a io sono qui @radio24.it, qualche giorno fa è arrivata una mail che raccontava un pochettino una storia che aveva a che fare con le previsioni meteorologiche e un pochettino no. Ciao Matteo, ti seguo spesso e ho deciso di raccontarti una storia vera. La storia parla di venti e parla di Milano, o meglio, parla dei venti che spirano sopra Milano. Pochi giorni fa, in un soleggiato pomeriggio autunnale, ero nel bosco sopra casa mia, a quota 1300 metri, un bosco di conifere. Il vento soffiava come al solito da nord-ovest, ovvero in direzione Milano, ed è proprio questo vento il protagonista, o meglio, coprotagonista di questa storia. Mentre camminavo nel bosco trovai sul muschio umido un biglietto bianco, quasi nascosto dalle foglie di colore ruggine cangiante, ricoperte di acqua, quasi avessero il morbillo. Insomma, trovai questo fogliettino e subito provai una piacevole sensazione. Credo un po' come quando si trova un messaggio in una bottiglia sul bagnasciuga. Poi ci sarà qualcuno che l'ha mai trovata davvero. Comunque, ti dicevo, il bigliettino. Un bigliettino formato A6, in cartoncino, piegato a metà, quasi a proteggere le lettere dell'inchiostro. Un foro nella parte superiore centrale e una scritta tedesca in bella calligrafia. Era un bigliettino che riportava indicazioni sul mittente. Chi lo spediva erano una coppia di sposi svizzeri che il giorno del loro matrimonio avevano deciso di proporre un gioco ai loro invitati. Il gioco era questo qui: un palloncino gonfiato ad elio a cui appendere un bigliettino sul quale ogni invitato avrebbe scritto che tipo di regalo avrebbe donato agli sposi. Qualora il bigliettino fosse stato trovato e rispedito al mittente, il regalo sarebbe stato mandato. In questo caso Nadia e Philip, cioè gli sposi, avrebbero l'occasione di passare un bellissimo weekend in un centro termale, sperando che Marlene, cioè l'autrice del bigliettino, sia ancora d'accordo. Ti dicevo del vento e di Milano. Il vento ha spinto integro questo palloncino e questo messaggio da Zurigo fino a casa mia, percorrendo circa 450 chilometri. Questa è la storia del palloncino e anche un po' però di Nadia e di Philip, che sono questi due sposi che hanno avuto questa idea, cioè quella di, cerco di rispiegarla meglio perché alla prima lettura non era chiara neanche a me. Loro hanno chiesto agli invitati al matrimonio di scrivere su un cartoncino il regalo che volevano fargli. Il regalo però non glielo facevano, ma lo attaccavano questo bigliettino al palloncino gonfiato ad elio, che quindi si liberava nel cielo, e se qualcuno avesse trovato questo bigliettino l'avrebbe rispedito agli sposi e l'invitato avrebbe fatto il regalo. Successo così, cioè l'ascoltatrice, credo, perché non è firmata la mail, trova il bigliettino, lo rispedisce ai due sposi che ricevono il regalo, e pochi minuti prima di andare in onda l'ascoltatrice mi ha scritto che tutto è andato a buon fine. Ciao Matteo, ti invio questa mail per informarti che Nadia e Philip mi hanno risposto. Nadia è una giovane donna italiana di Modena che si è trasferita a Zurigo. Mi descrivono la gioia che hanno provato nel ricevere il nostro dono, cioè l'invio del palloncino ovviamente, e la meraviglia nel saperlo a 450 km di distanza da casa loro. Non avrebbero mai pensato che qualche bigliettino potesse essere da loro ritrovato nella cassetta delle lettere. Grazie, a presto. Grazie a te, magari fammi sapere come ti chiami, visto che non ti firmi. Questo appunto per quanto riguarda piccole storie di palloncini, di regali, ma anche di previsioni meteorologiche. E poi chiudo con la questione delle previsioni meteorologiche, però c'è una cosa meravigliosa che ho scoperto proprio ieri, e che riguarda appunto la fissazione che le persone hanno nei confronti delle previsioni meteorologiche. Stavo girando a caso sul web ed ero finito, un po' meno a caso, sul sito di David Lynch, che è il regista folle che fa questi film magnifici e per lo più incomprensibili. Insomma, sul sito di David Lynch ci sono le cose di David Lynch, per cui ci sono la sua biografia, la filmografia e tutte le cose che un regista chiaramente mette sul proprio sito per far sapere di sé. Ma c'è un bottone nel menu, c'è un'opzione che si chiama previsioni meteorologiche. Good morning, it's May 28th, 2010 and it's a Friday. Here in LA, pretty overcast, some blue skies, muted golden sunshine, a gentle breeze, 60 degrees Fahrenheit, 16 Celsius. Have a great weekend. Tutti i giorni David Lynch, con una webcam che punta davanti alla sedia della sua scrivania, fa le previsioni meteorologiche guardando fuori dalla finestra dello studio. Ieri ho passato tipo un'ora a guardarmi. Ne abbiamo altre ma non le mandiamo perché poi sono tutte uguali. C'è lui con sto ciuffo bianco nell'inquadratura che guarda fuori dalla finestra del suo ufficio, del suo studio, e dice semplicemente che tempo fa, se c'è il sole, se ci sono le nuvole e che temperatura c'è. Se vi capita di andare a vederlo è sul sito, credo che sia davidlynch.com, magari poi ve lo carico sul profilo Facebook. 800240024 349-238-6666, perché oggi io vi racconto come continua la mia scelta di dire sempre la verità, e oggi vi racconto la parte dedicata al posto di lavoro, no? Lo dicevo anche prima in apertura di programma, cioè qual è il posto in cui probabilmente vengono racchiuse tutte le ipocrisie che noi raccontiamo durante la nostra giornata. È un po' l'ufficio, o comunque il posto in cui lavoriamo, per cui bisogna essere cordiali anche se non lo si vuole essere, e bisogna sorridere anche se non si è in vena di farlo. Questa mattina, tra l'altro, al bar ho scoperto, origliato, una conversazione tra due ragazzi che stavano facendo colazione, e una diceva proprio che il suo capo era un imbecille, che era un ruffiano, che era uno che aveva il coraggio di prendere decisioni, che era lì perché qualcuno ce l'aveva messo, e a un certo punto uno gli diceva: senti, ma scusami, invece che dirla a me, perché non lo racconti a lui? 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi vorrei sentire tutte quelle persone che hanno avuto quel coraggio lì, che un giorno l'hanno afferrato a due mani, il coraggio e non il capo possibilmente, e gli hanno detto tutto quello che pensavano su di lui. Ecco, magari poi che non sono state licenziate per questo, non sarebbe male, cioè non sarebbe male che venissero fuori storie per cui uno ha raccontato al suo capo: guarda, adesso ci sediamo qui e io ti dico che cosa penso di te, di quello che stiamo facendo, del lavoro che faccio, di quello che è utile e di quello che è inutile. Perché non è detto che poi il capo ti mandi, come dire, ti licenzi. Non lo so, magari sì, magari no. 800240024 349-238-6666. No, lo chiedo a voi, perché a me l'altro giorno è successa una cosa simile. E io lo sapevo che questa storia della verità avrebbe creato momenti difficili, in particolar modo sul lavoro. Ed eccomi qui. Ora fate questo sforzo, provate a pensare a qual è il posto in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Quello in cui i rapporti sono coatti perché non ce li siamo scelti noi, ma li abbiamo dovuti creare per forza. Provate a pensare a qual è la situazione in cui dovete sorridere sempre, dovete essere cortesi per definizione e tirare dritti, anche se è una giornata storta. È chiaro, no? È il posto di lavoro. Provate a riflettere su quanto non sia conveniente essere sinceri durante quelle 8 ore in ufficio o ad uno sportello o al telefono. Cioè, che non dico che sia necessario farlo, cioè non sono un cretino. So bene che il mondo è governato da regole economiche, ecco che le regole prevedono che in un modo o in un altro ognuno di noi, per poter sopravvivere, per poter avere del cibo da mettere in corpo o un tetto da metterci sopra, ha bisogno di soldi. Perché tutto dipende dai soldi, da quanti ne hai e soprattutto da quanti non ne hai. Quindi, per cercare di non averne il meno possibile, ognuno di noi trova un posto in cui andare a lavorare. Ci trascorre gran parte delle ore di veglia di una giornata e fa cose che spesso non lo riguardano, per persone che per lo più non conosce e che nella maggior parte dei casi non gli piacciono. Ma per non entrare nel merito di quelli che lavorano con i familiari, perché lì scattano delle dinamiche perverse che forse manco Freud. Comunque, tornando alla questione sincerità sul lavoro, provate a pensare a quante palle bisogna raccontare ogni giorno tra i colleghi, ma soprattutto con il proprio capo. E non intendo dire che si racconta di essere stati, che so, ai Caraibi in vacanza quando si è stati a Gatteo Mare. No, io parlo proprio dei silenzi, delle omissioni, delle volte in cui si è condiscendenti quando la si pensa in maniera opposta, dei sorrisi di cortesia, quelli di convenienza, quelli di distacco. Io parlo del mal di pancia che ti viene la domenica sera mentre guardi Gol o Non Solo Moda, al solo pensiero di rientrare in quel posto. Parlo del conto dei giorni di ferie, di quelli che mancano al venerdì, degli anni che mancano alla pensione, se mai ne arriverà una. Per non parlare poi delle storie clandestine, ovviamente, quelle che nascono sui luoghi di lavoro, che quello non deve sapere che quella ha una relazione con quell'altro, che è sposato ma sta divorziando, o forse no, non mi ricordo più, ma tanto lei sa che anche tu hai avuto tempo fa una storia con il capo, quindi c'è poco da fare il furbo, che se non stai attento, anche tu non sei messo tanto bene. Insomma, nonostante tutto, qui in radio io mi ci sono sempre trovato bene. Ci sono persone molto piacevoli, altre meno, ma questo però capita ovunque, no? Anche al supermercato, in vacanza. Però, alla fine, è un posto in cui mi piace venire, anche perché mi piace quello che faccio, quindi questa è un'enorme fortuna. Di fatto però ho la sensazione che per mantenere una certa serenità sia impossibile dire sempre quello che si pensa. Lo scorso anno, durante Vendo Tutto, avevo mantenuto un velato alone di sana ipocrisia che funzionava, però ora, con la mia decisione riguardo alla sincerità, sto seriamente mettendomi in difficoltà. E ieri ho avuto un incontro con il mio caporedattore. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. 10:45, 13 ottobre 2010. Sono nel bagno della radio e sto per entrare nell'ufficio del caporedattore. È esattamente come quando da bambino dovevo andare dal preside. È la stessa roba. Non capisco perché. Credo che sarà così fino a quando ci avrò 60 anni. Però una cosa l'ho maturata ed è aggrapparmi alle cose che devo dire. Ok, quindi mi sono segnato le cose da dire, che sono la questione degli orari, la questione della casella mail, gli orari con i tecnici degli studi, e poi invece organizzare degli eventi anche al di fuori del programma. Ci sono queste quattro cose, gliele devo dire. Concentrato, il problema è che poi quando, se lui mi dice una cosa o mi fa una domanda, io vado dietro con la domanda lì e mi dimentico completamente tutto quello che gli ho detto che dovevo dire, che ho pensato che dovevo dirgli, tutto. Respiri lunghi, magari mi tolgo il maglione perché altrimenti so già che sudo. Concentrato, ok. 10:47, 13 ottobre 2010. Il caporedattore è una persona per bene. Oddio, per dirla tutta, io non lo conosco molto, però le volte in cui l'ho incontrato mi è sempre sembrato una persona con cui poter parlare serenamente. È chiaro che quello che io faccio qui dentro è leggermente diverso da quello che sono abituati a fare, visto che io racconto delle piccole storie quotidiane, mentre questa è una radio soprattutto di informazione, di approfondimento, però è soprattutto una radio che fa dell'autorevolezza un punto di forza, e questa cosa mi piace molto. Mi piace anche perché questa è una radio che io ho sempre ascoltato, anche quando lavoravo in un'altra, e questo è vero. Insomma, l'altro giorno per la prima volta sono stato ufficialmente convocato dal caporedattore. Non so se succede a tutti, però quando mi devo recare da una persona che sta gerarchicamente sopra di me, io regredisco immediatamente allo stato di liceale, ai tempi in cui venivo convocato dal preside. Cioè, la sensazione che ho è di avere fatto qualcosa che non va, e quindi mi devo subito preparare con la guardia alzata. Il suo ufficio sta, come tutta la sede della radio e del Sole, peraltro, in un angolo e ha le pareti di cristallo, il che lo rende una cosa che sta a metà tra una serra e un acquario. Io mi sono seduto sulla sedia davanti a lui e subito sono partito con il piede sbagliato. Gli ho dato del lei quando avevamo deciso tempo fa di darci del tu. Questa cosa però non capisco proprio da dove arrivi, ma per me è fuori controllo. Cioè, se una persona ha più anni di me, se ricopre una posizione più in alto della mia, a me viene non solo naturale, ma quasi istintivo rivolgermi mantenendo un certo distacco. Probabilmente se fossi campano gli darei del voi, però visto che sono di Novara uso semplicemente il lei. E beh, lui mi ha detto di dargli del tu, io gli ho risposto di no, che non ce la facevo. Mi ha chiesto come stava andando con la mia decisione di dire tutta la verità e gli ho risposto che andava a momenti. A volte sembrava una decisione fantastica, a volte un po' meno, ma che alla fine un po' tutto va a periodi. Lui ha sorriso, mi ha chiesto se mi piaceva la sua giacca e gli ho detto di no. Che è strano, però non capisco, però quando dico sta roba che dico la verità, la prima cosa che le persone mi chiedono sempre riguarda il modo di vestire. Vabbè, poi ci siamo messi a parlare di cose inerenti al programma, la radio e il mio modo di fare e raccontare le cose. Non entrerò nel merito della discussione perché non è il caso e perché non ha a che fare con la mia promessa. Lui mi ha comunque sempre stato cordiale, anche se in un paio di occasioni io ho detto cose che, vista la sua espressione, lui non si era mai sentito dire da nessuno, e tantomeno sul posto di lavoro. Ho detto quello che pensavo della radio, dei programmi, dei collaboratori, di quelli che seguono e di quelli che non seguono. Ho detto che ci sono cose che non mi piacciono, ma me le faccio andare bene, e altre che invece trovo proprio sbagliate. Insomma, quando sono uscito da lì, ho pensato che in un modo o nell'altro lui mi avrebbe potuto cacciare quando voleva. Anche subito. Al momento sono ancora in onda. Domani vediamo. You peer inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walk. 1627 80024 0024 349 238 6666. Piero da Chiuduno? Vabbè, esisterà un posto che si chiama Chiuduno, insomma. Io l'ho fatto due volte e poi me ne sono andato. Due volte. Adriano, io sono stato sincero con il mio capo per oltre 15 anni. Quando ho cominciato a darmi ascolto, ho lasciato il lavoro per diventare capo di me stesso. Insomma, se proprio non ce l'avete fatta più e gli avete detto tutto al vostro capo, 80024 0024 oppure 349 238 6666. Ora la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è un tizio con una bella faccia. È in montagna. È su un sentiero anche abbastanza largo, non è così stretto. E devo dire, il sentiero è in pianura, deve essere un falso piano. Quindi non sta camminando. Alle sue spalle c'è la montagna da cui sta probabilmente scendendo. E lui ha addosso un poncio. Uno di quei cose impermeabili, no? Che ti metti, ti copre la testa, lo zaino e tutto il resto. Ha in mano due bastoni e ha delle scarpe da montagna, quindi è uno che in montagna ci sa andare probabilmente ed è abituato a farlo. Il poncio però è mimetico. La cosa del poncio mimetico non la capisco bene. Cioè, o sei un militare o altrimenti non è che hai bisogno di nasconderti. Però c'ha due bei bastoni in mano, una bella faccia, gli occhiali, ma soprattutto piove. Franco Manara, 46 anni, sotto la pioggia, 2400 metri. Io sono qui. E voi dove siete? 80024 0024 349 238 6666. C'è il profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui, per mandarmi la foto dove vi trovate voi. Tra l'altro ci è arrivata una foto prima all'indirizzo io sono qui, @radio24.it. Ci abbiamo messo un pochettino io e Vittoria a capire di chi era. E solo alla fine, guardandoci in giro, poi adesso non ho molto tempo ma domani ve la racconto, anche perché non siamo riusciti a contattarlo oggi, lo facciamo domani. La foto ce la mandava Tiziano Bonini, che in questo momento non è qui, è fuori dall'Italia per cose di università, dice lui, e ci ha mandato una foto per e voi dove siete? Se siete in giro o se state facendo un viaggio che quindi vi porta fuori da casa vostra, fuori dal vostro ufficio, e comunque avete voglia di mandarmi quella foto lì, per voi dove siete, fatelo sempre Matteo Caccia, io sono qui, sul profilo Facebook, ma anche vale anche all'indirizzo io sono qui @radio24.it. Mi arrivano dei messaggi di gente che mi dice che la storia del palloncino con il cartoncino attaccato non è questa novità. Emilio, non è possibile, a me è arrivato un palloncino simile da una coppia di sposi svizzeri. A me è arrivato a Concorezzo, ma non partiva da Zurigo, ma dalla zona di Friburgo. Il regalo è una cena, ancora non so se è andata a buon fine. Ciao Emilio, probabilmente è una tradizione tedesca. Tommy, è successo anche a me. Ho trovato un bigliettino con palloncino proveniente dalla Francia, a Carcoforo, in Valsesia. E poi, prima di passare alle telefonate delle persone che hanno detto tutta la verità al loro capo, Luca mi scrive: Matteo, non ci posso credere che David Lynch faccia le previsioni del tempo, ma soprattutto che abbia questa voce da vecchietto del West. Guarda, te la faccio risentire un'altra, visto che non ci credi. Good morning, it's January 29th, 2009, and it's a Thursday. Here in LA, beautiful blue skies, golden sunshine, A gentle breeze. E questa cosa la fa tutti i giorni. Andate sul sito perché è straordinario. L'ultimo messaggio invece che mi è arrivato mi racconta proprio di confessione al proprio capo. Ciao Matteo, io col mio capo l'ho fatto due volte. Parla di dire la verità. La prima sono andato via dall'azienda, la seconda pure. Purtroppo ora l'azienda sta per chiudere per la sua politica aziendale. La cosa più bella è avere il coraggio di dire tutto e sempre in faccia, senza paura. Ci ho messo mesi entrambe le volte, ma che sollievo dopo e che soddisfazione sapere già le sue risposte. Dirgli in massima sincerità che è un imbecille totale e uscire con un sorriso e a testa alta. Gianluca, 800240024 oppure 349-238-6666. Andiamo da Alberto, in provincia di Udine. Pronto Alberto? Ciao. Ciao, come stai? Ma non male, tutto sommato. Ho sentito alcune cose che hai detto, sì. Per cui per certe cose mi ci sono rivisto. Cioè tu hai detto tutta la verità al tuo capo e ne no. Sei uscito bene? No. Cosa hai fatto, Alberto? Parlo della sindrome del, come dire, del piccolo piccolo quando stai per entrare da qualcuno che ti ha convocato, no? Ah, certo, cioè della sindrome da preside del liceo. Sì, non so come dirtelo, è come capita tuttora che sono adulto, laureato, eccetera. Quanti anni hai, Alberto? 45. Ok. E se mi chiama qualcuno al di sopra di me, anche se ne ho pochi, mi viene da chiedermi cosa ho fatto. Ma scusami, tu cosa fai, Alberto? Cosa fai nella vita? Sono un medico. Sei un medico? Di che cosa? Un medico generico oppure? Preferirei evitarlo. Ah, scusami, ok. Non è un problema. Senti, però qua mi scrivono anche che in realtà tu tra un'ora hai un appuntamento particolare. Sì, meno di un'ora. Sono meno a un chilometro da casa di mio padre. A cui devi dire delle cose? A cui dovrò dire tutto quello che penso. Ma perché proprio oggi lo devi fare, Alberto, scusami? Perché è venuto il tempo, da molto tempo che aspetto, e nonostante molto tempo parlo di anni, e mi sento come se avessi 15 anni. Ah, lo immagino, ma guarda, un pochettino si sente anche della tua voce, però vorrei capire, c'è un perché per cui un giovedì 14 ottobre alle 5:20 del pomeriggio tu vai da tuo padre? Potrebbe essere il 7 di agosto. Ok, oppure una domenica a pranzo? Potrebbe. Non pranziamo insieme da un sacco di anni. Ma senti, ma questa cosa che gli devi dire è una cosa per cui ci sarà una cosa definitiva dopo, per cui, come dire... Non lo so. Ah, non hai idea. Ho un carattere strano, un carattere molto particolare. Credo sappia già tutto quello che gli devo dire, ne abbia piena coscienza. E forse sentirselo dire da un figlio potrebbe essere decisivo a una certa età. Però è ora che io smetta di fargli da padre. Senti Alberto, facciamo così, io adesso ti lascio anche perché sento che è un momento, probabilmente se devi toglierti il maglione perché stai sudando, immagino. Senti, se ti va e se veramente, se ne hai voglia di farlo con calma, magari domani ci sentiamo e mi racconti com'è andata. Se va in qualche modo, se va in qualche volentieri. Modo. Okay. O appena va, facciamo che appena va o prende un risvolto, te lo racconto volentieri. Va bene, Alberto, in bocca al lupo per il momento, mi raccomando. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo. Alberto era chiaramente nervoso. Bene, fatto diventare un po' pure me. Però Alberto ce lo teniamo lì e lo sentiamo domani. E invece andiamo a Napoli da Luciano. Pronto Napoli? Ciao Matteo. Ciao Luciano, come stai? Tutto bene, tutto bene. Io sono sempre ottimista, anche di quello che feci nel 2008. Che hai fatto nel 2008, Luciano? Niente. Come io sono autotrasportato da un medico a un autotrasportatore, c'è un bel abisso. Comunque, niente. No, nel senso che Alberto prima era un medico. Ah, che abisso c'è? Gente che lavora, Luciano. No, ognuno sceglie i propri lavori. Bravo. E niente, perso la patente per un mio sbaglio, e giustamente la polizia me la tolse. Sì. E io dovevo partire per la Parigi, non potetti più partire. Tu guidi, cosa guidi, Luciano? Camion? Sì, un tir di quelli grossi proprio? Sì, quelli più grandi che ci sono. E sei in questo momento sei sopra? Sì, in questo momento qua ce l'ho tutto a posto, sono l'auricolare. No, lo immaginavo. No, perché sono cotto ormai. Sei cosa? Sono cotto ormai, non facciamo più queste fesserie. Che vuol dire sono cotto, Luciano, scusami? Una volta che ti hanno beccato, la seconda volta sei cioè che ti hanno pizzicato. Boh, non lo so, io non ho mai detto sono cotto riferito al fatto che ti hanno pizzicato e quindi non lo fai più, però ok, va bene così. E niente, mi tolgo la patente, io la verità era per un mese, volevo fare l'indiano, no? nel senso di non dirglielo, giusto? Sì, sì, ok. Avendo amici in polizia, telefonò un mio amico in polizia, ho detto, no, Luciano, non fare le stesse usate perché bravo. La parola. Perché se ti beccano, sei cotto. Perfetto. Allora io prima inventai una scusa che dovevo andare in ospedale per 15 giorni per operarmi, diciamo, l'emorroide. Okay. Ok, va bene, perfetto. Poi lui disse, beh, mi sono per l'ospedale, mi ha chiamato, io lunedì devo andare per fuori. Ma come va, rinvia questa e quella? Niente. Niente. Alla fine lo prese di faccia e disse, caro amico, io purtroppo un mese devo stare a casa, così. Però okay. Il verbale te lo pago io. Ma qua, là, come si fa, come non si fa, tutti vengono qua, quello così, quell'altro così, sì. Da te non me l'aspettate le solite cose. Chiaro, da uno come te, Luciano. Non l'aspetto, come me l'aspettavo, perché io ho sbagliato, quando mi fermai, ho sbagliato, chi se non c'è di Dio. Insomma, com'è andata a finire, Luciano? È andata a finire che dopo, diciamo, questo è il 23 di maggio, sì. Del 2008, due mesi dopo si deve sposare anche mio figlio. Adesso poi mi dice anche com'è andata. Poi alla fine, dopo un mese, sai, mi vedevo in parcheggio una volta una parolina, una volta un'altra. Martedì mattina vado lì e lui tutto che sbraitava, inveiva su tutti. Allora a Napoli c'è che quando tu dici una cosa, no, alla fine c'è Perdonami, guarda, io veramente starei tutto il giorno a parlare con te durante il tuo viaggio, però io ho ancora solo due minuti, dimmi solo com'è andata a finire. Lui ha offeso un po' tutti, compreso il ministro, ma in questo discorso anch'io, tu sei il primo, disse vaffa quel paese. Luciano, senti, grazie mille, volevo sapere dove andava, se chiedevo dove andava non stavamo, tu rimani comunque lì, ci sentiamo. Da licenziato, perfetto. Luciano, ti abbraccio, vai piano. Ciao, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo invece. Prima è arrivato un SMS che vi leggo. Un giorno sono entrato nell'ufficio del mio capo e gli ho detto che mi ero stancato di lavorare per lui, di fare tutto quello che lui non faceva, eccetera, eccetera, eccetera. Lui mi ha guardato e candidamente mi ha detto: scusa, mi sono innamorato. L'ho guardato e gli ho sorriso. PS, lavoro in banca. Franco, pronto, Franco? Sì, pronto, ciao. È andata esattamente così? Sì, più o meno sì, nel senso che non eravamo in ufficio, ma eravamo davanti all'ufficio. Sì. Abbiamo preso un caffè, e io ero un po' che rimurginavo, che dovevo dirgli che non ne potevo più, e poi gliel'ho detto. Ma di cosa si trattava più o meno? Ti ricordi che cosa gli hai detto? Gli ho detto che io non volevo più lavorare per lui, se mi dava il suo stipendio bene, se no niente. E quindi lui mi ha detto: guarda, mi sono solo innamorato. E allora gli ho detto: va bene, fai. Problema che dopo ho continuato a lavorare per lui ancora. No, non ho capito. Allora scusami, io avevo capito male dal messaggio. Cioè, il tuo capo si era innamorato? Sì, si era innamorato e quindi non veniva più a lavorare. Ah, ok, ma io credevo che tu ti fossi innamorato di lui perché lui ti ha chiesto scusa. No, no, ok, perfetto, ok. Quindi adesso però è passato questo innamoramento oppure? Ah, non lo so, non lo vedo più. Ma ti sei licenziato? Lui si è licenziato. Che lavoro fai, Gianluca? In banca cosa fai? Allo sportello? No, lavoro con le aziende. Non si può dire? Sento che hai una voce un po'... No, lavoro con le aziende, sì. No, sì, cioè, cosa fai con le aziende in banca? Faccio il gestore di aziende. Ah, ok, perfetto. Gianluca, ti ringrazio molto e buona giornata. Ciao. Ciao, alla prossima. C'era un ultimo messaggio che mi diceva: io vorrei tanto dire tutta la verità al mio capo, ma poi penso alle rate del mutuo, Giacomo. E questa, purtroppo, è una grande verità. Anch'io sono medico, tranquillo. Sono gli anni di università che ti rovinano e ti mandano in paranoia con la sindrome del liceale, ma probabilmente non solo. Io c'ho ancora qui Alberto, che probabilmente il chilometro l'avrà riempito tra lui e il padre e mancherà poco. Alberto, facci sapere, abbiamo il numero di Alberto, perfetto, ce l'abbiamo. Io ringrazio tutti quelli che hanno fatto il programma oggi, cioè Paolino Corleoni e Vittoria Mussini, che ci lascia anche lei domani, e quindi noi rimaniamo, io e Paolo praticamente. Paolo, magari domani vieni pure in studio. Oggi ho scoperto che siamo in tanti ad amare le previsioni del tempo, oltre a me e a David Lynch. Ho fatto colazione al bar, ho saltato il pranzo, ho detto la verità al mio capo, anche se non proprio tutta. Oggi io non lo so, domani sono qui. E voi dove siete?